La de Bieber Show, nah, big en talla small, blah, es otro show, menos del mio show. Ora di me come sei, non esci alle t'avanzo, non fuori moda come le tue vans, femminile come un trans, non ne passo, regina di sto, kiss my ass, non penso spacchi passi, fatta cara con assi scarsi, parti sola nel tuo party, come non posso aiutarti, cosa mi guardi se te la prendi, non ho una borsa firmata Fendi, non sono friendly, né dolce candy, né tu mi stendi, mo te le prendi, assassina mi reputo sanguinaria, mina che scoppia e non c'è storia, corona che tolgo la mia avversaria, bastano sguardo e salti in aria, oh, fatto a botte col passato e mi è bastato, e se la vita costa fatica a volte il conto l'ho saldato, a te non ti ho neanche contato, mi stai su C A Z Z, oh mo come te lo do, mangiati pallottole di questo sano flow, T U C K Fuji Fake, conosco tutte le facce che sei, la rivive sola. Big in taglia small, blah, è il tuo grosso show, meno del mio show, regina, la rivive sola, big in taglia small, blah, è il tuo grosso show, meno del mio show, regina, la rivive sola, big in taglia small. Il tuo grosso show, meno del mio show, regina.